che può avere un errore rispetto a quella rettale di qualche decimo, ma come diceva il dottor Gargiulo, che uno abbia 37,8 o 37,9 non sposta assolutamente nulla, quindi è quella ascellare col termometro elettronico digitale, quella raccomandata dai pediatri italiani. E per gli adulti invece, dottor Gargiulo? Assolutamente uguale. Lo stesso discorso, sì sì, ma anche perché per gli adulti quella orale è possibile perché è più facile in un adulto utilizzare il termometro sublinguale, ma l'ascellare va benissimo, una sola accortezza: asciugare bene l'ascella, perché il sudore potrebbe creare delle variazioni di temperatura, della rilevazione della temperatura, quindi asciugare bene l'ascella ed evitare che ci sia troppo caldo, quindi magari tenere soltanto una magliettina leggera mentre si misura la temperatura per evitare che il calore esterno possa confonderci un po' le idee. Professor De Martino, prima di salutarci, farmaci antipiretici per i bambini, quando e quali? Dunque, i farmaci antipiretici quando? Quando la febbre determina una situazione di malessere. Sì. In pediatria sono accettati soltanto il paracetamolo e l'ibuprofene. I dottori degli adulti hanno effettivamente una migliore scelta. Preferibilmente per via orale, quella per supposta deve essere lasciata quando il bambino vomita. Sì. E assolutamente da evitare, perché sono irrazionali e inutili, tutte le altre procedure, spugnature, ghiaccio in testa. Anche quelle ce le ha fatte togliere, mai il cortisone, vero? Mai il cortisone non deve mai essere dato, perché prima di tutto non c'è motivo di combattere la febbre con un farmaco così importante, perché può nascondere dei sintomi che potrebbero essere utili al pediatro, al medico, per individuare qualcosa precocemente. Allora, io ringrazio il professor De Martino e il dottor Gargiulo, grazie per essere stati con noi, per averci chiarito i meccanismi della febbre e averci spiegato come affrontarla. Ci avete tranquillizzato e questo è già, no? E già la febbre scende. Grazie dottor Gargiulo, professore, grazie anche a lei. Grazie a voi. Grazie Nicoletta, arrivederla professore. Arrivederci dottor Gargiulo. E adesso cantiamo e suoniamo come siamo ormai soliti fare da 3 mesi a questa parte. Il 13 ottobre è partita la nostra iniziativa Influenza A, te la canto e gliela suono. 9 concorrenti agguerriti e intonati hanno messo la prevenzione in musica, voi li avete sentiti, guardati e votati, e io vi ringrazio davvero tanto per il sostegno e l'entusiasmo che avete dimostrato. Pensate che sul nostro sito dedicato all'iniziativa sono arrivati più di 100.000 voti per decretare il video più amato dagli ascoltatori. Oggi vi annunceremo chi è il vincitore, o meglio il preferito, da tutti i webnauti che si sono collegati con il sito di Radio 24. Ma le premiazioni non finiscono qui. Oggi non si chiuderà ancora in modo definitivo la nostra competizione, perché da oggi i video non sono più in gara per la preferenza decretata dal pubblico, però comincia una settimana di fervide votazioni da parte di una giuria specializzata che sceglierà il suo video preferito in base a 3 indicatori: valore artistico del pezzo, efficacia di comunicazione del prodotto finale e qualità del messaggio preventivo in esso contenuto. Così il prossimo mercoledì proclameremo, come proprio in uso, no, direi nei migliori eventi, anche il vincitore per la critica. I video in gara sono 9, come vi ho detto, e quindi dobbiamo dare un po' di tempo ai nostri esperti per fare un buon lavoro. Allora, io adesso vorrei svelarvi ad uno il nome dei nostri giurati. Iniziamo con la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica presso il Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. Buongiorno. Buongiorno, beh, ogni volta che lei mi chiama la ringrazio, ma questa volta non so proprio se devo ringraziarla, perché mi ha dato un compito pesante, insomma, scegliere fra tanta qualità e tanta intelligenza non è facile. Fare la membro della giuria di questa importante, direi, commissione è impegnativo, perché in tutti i video è stato in pratica centrato un po' quello che era il messaggio importante da far passare, cioè quello di avere sicuramente delle attenzioni per questa influenza, ma prenderla un po' easy, insomma, non drammatizzare. E tutti hanno dato una grande prova di professionalità, perché hanno ben interpretato anche il messaggio tecnico. Che dire, starò lì, sto pensando di bilanciare in modo da dare se è possibile una valutazione comparativa. Per me sarebbero tutti da elogiare e da non so, cooptare in trasmissioni salute, se possibile. Professoressa Gismondo, sono sicura che lei sarà all'altezza del compito che le abbiamo affidato insieme agli altri giurati. Intanto le metto subito al lavoro una settimana di tempo. Ci sentiamo mercoledì prossimo con il nominativo scelto dai giurati. Professoressa Gismondo, grazie. E allora grazie e buon lavoro anche a tutti gli altri colleghi della giuria. Eccoci, siamo tornati e io voglio presentarvi gli altri giurati che contribuiranno ad emettere la prossima settimana il verdetto della Commissione Qualità. In linea con me ho l'assessore alla salute del Comune di Milano, Giampaolo Landi di Chiavenna. Assessore, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a voi, buon anno se mi è consentito ancora. Buon anno anche a lei. Grazie. Io prima di metterla al lavoro, prima di chiudersi nella cabina dei votanti, un commento su questa iniziativa. Beh, l'iniziativa è stata molto bella e vi ringrazio, molto bella, molto significativa, ha portato ancora di più l'attenzione sul problema, un problema importante e serio che per fortuna non ha avuto effetti particolarmente negativi per la popolazione e di questo dobbiamo essere tutti estremamente contenti e soddisfatti. Abbiamo con questa iniziativa anche dato un'immagine un po' più leggera del problema che si affacciava anche per la salute dei cittadini italiani. Io ho esaminato, ho cominciato a visionare i filmati, eccetera, mi sembrano tutti molto belli, apprezzabili, interessanti, quindi io conto che con la giuria si possa esprimere un giudizio importante e significativo. C'è stato un coinvolgimento estremamente importante anche numericamente oltre che qualitativamente delle persone che hanno deciso di partecipare a questo concorso, quindi grazie a Radio 24, grazie a Nicoletta Carbone perché ha contribuito a dare un bel messaggio importante e significativo di partecipazione e coinvolgimento e il Comune di Milano, il mio assessorato, ne sono fieri di averne fatto parte. Grazie anche a lei. Allora la metto subito al lavoro e noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Buon lavoro al grazie, giurato. Grazie Nicoletta, un abbraccio a tutti voi e buon lavoro anche a voi. Grazie. Grazie. E adesso andiamo sotto la lente del microscopio di uno dei virologi più riconosciuti e tra l'altro uno dei grandi amici della nostra trasmissione. In linea con noi abbiamo il professor Pregliasco, virologo all'Università di Milano. Professor Pregliasco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, di solito voi medici parlate in medichese, i nostri medici invece all'influenza gliel'hanno cantata e suonata e l'hanno messo proprio la prevenzione in musica. Assolutamente, io credo che sia importante una comunicazione. Questa situazione, come diceva anche Landi di Chiavenna, ha avuto delle ripercussioni pesanti rispetto a una mancanza di comunicazione, di canali trasversali, anzi i blog per esempio hanno in questo caso massacrato le istituzioni con un eccesso di criticismo, con un'esagerazione a mio avviso di quelli che sono elementi negativi, di incertezza, di interessi economici che comunque ci sono, e quindi assolutamente plaudo anch'io un'iniziativa che rende leggera ma comunicata delle informazioni di educazione sanitaria che potranno servire nel contesto specifico, quindi per l'influenza, perché non è mica detto che sia finita, questa influenza ha finito la prima ondata, si ripresenterà in forma più o meno pesante, ma io credo che tutto questo, quello che è successo adesso con le negatività verso la vaccinazione eccetera, ci devono fare coscienza e esaminare come fare comunicazione. È bellissima questa idea di una comunicazione leggera, trasversale, che ha la potenzialità di diffondersi a tantissimi. È così, grazie al fatto che se tutti ci laviamo le mani, staremo tutti meglio, avremo meno influenza, ma anche meno patologie a trasmissione fecorale o orofecale, che appunto dal lavaggio delle mani sistematico, per esempio, ne avranno beneficio. Quindi bellissimi tutti i canali, internet, i media e poi le classiche canzoni, filmati, video che brevemente, semplificando i concetti, fanno arrivare alla gran massa di persone dei messaggi che poi vengono magari ripetuti, ripresi in modo più analitico con altri meccanismi. Grazie allora al professor Pregliasco per essere stato con noi. Mi raccomando, professore, si metta subito al lavoro. Assolutamente sì. presto. E direi che dal laboratorio passiamo, ci trasferiamo, andiamo proprio sulle note per presentarvi il nostro giurato di qualità che rappresenta proprio il mondo artistico e musicale. E lasciatemelo dire, che giurato, considerato che uno dei più grandi musicisti italiani, il suo ultimo CD Orchestra e Voce, che proprio ho avuto il piacere di presentarvi in uno speciale natalizio, ha già raggiunto il disco di platino. Ora in scena va l'uomo senza età, di leguanotte per te canterò, per te, solo per te. Devo dire che oggi che abbiamo parlato di febbre, io quando sento questa voce provo dei brividi, ed è la voce, voi l'avete già riconosciuta, di Francesco Renga, che è in linea con noi. Francesco, come stai? Come state? Come va? Tutto un brivido. Perché questa voce, io devo dire che le canto anche, le tue canzoni le so tutte, ma insomma cerco di cantarle da sola. Senti Francesco, tu a Sanremo nel 2005 sei stato dichiarato vincitore, ora passi proprio dall'altra parte. Passo dall'altra parte della barricata, faccio il giurato, spero di essere all'altezza. Tu hai parlato di giuria di qualità, speriamo di avere le qualità, diciamo, adatte e giuste, insomma, per poter giudicare appunto questa cosa che secondo me è molto bella, che avete fatto, della quale avevamo già parlato all'epoca. E sono molto felice in realtà di fare questa operazione con voi. Anche noi, Francesco. Allora senti, hai già dato tu un'occhiata ai video? Hai già ci vuoi dare qualche anticipazione o fai proprio il giurato serio? No, serio fino... il giurato serio, perché mi sembra anche così sbagliato, inopportuno, insomma, anticipare cose. In realtà poi è stata una cosa molto molto molto fugace e veloce che ho fatto, quindi voglio approfondire bene. Devo dire che la qualità è ottima, è quasi sorprendente, quindi attendo insomma il momento per dare poi decretare insomma il mio giudizio. Grazie allora Francesco, buon lavoro. A voi, a te, grazie mille, buon lavoro e a prestissimo. A prestissimo, baci. E io non le do un bacio perché la vedo sempre, e qua è davanti a me, è componente della nostra giuria di qualità, Alessandra Scaglione, responsabile dei programmi di Radio 24. Non ci baciamo perché ci vediamo tutti i giorni. Sì, no, non ci baciamo. Però ci siamo presi il bacio di Francesco Renga. Mi sa che era più tuo quel bacio, purtroppo. Sono un po' invidiosa, ma pazienza. Senti Alessandra, sei soddisfatta allora? Beh, è una domanda, beh, non potrei dire di no. Però, comunque, ma sono soddisfatta davvero, perché tanto è stato molto bello anche adesso ascoltare l'entusiasmo di questi giurati che hanno parlato di questa iniziativa, insomma, con un entusiasmo che mi è sembrato molto forte, molto vero. E poi perché davvero, come hanno detto anche gli altri, questi prodotti erano tutti molto belli, molto piacevoli, molto belli da ascoltare, e quindi insomma abbiamo dato un piccolo contributo sul nostro settore, che è quello della comunicazione, al di là di fuori di qualsiasi polemica, per fare un'operazione che credo sia stata utile. Abbiamo dimostrato un pochino che è possibile parlare anche di cose serie e importanti in maniera piacevole, divertendosi. Chissà che magari questo tipo di operazione su un altro tema, su un altro argomento, non la ripetiamo. Questo ci piacerebbe molto. Tra l'altro queste regole di prevenzione servono anche per l'influenza stagionale, sono sempre verdi. Servono comunque. Come il nostro numero verde, 824-0024. Alessandra, tra l'altro, la nostra giuria è una cosa seria, non sarà un voto generico quello che dovrete dare. Assolutamente. Allora, dato che tu sei, insomma, siamo io e te, sei di casa, vuoi raccontare come avverranno le votazioni? Sì, dunque, le votazioni sono organizzate così. Ogni giurato ha ricevuto un kit di votazione, l'abbiamo chiamato in questo modo, che comprende una scheda per ogni video. La scheda ha 9 indicatori per valutare le 3 variabili che ci servono per il giudizio finale, che sono la creatività, il valore artistico e la correttezza e appropriatezza del messaggio preventivo. Ogni giurato può esprimere un voto da 1 a 10 per ogni indicatore. Alla fine si fa la somma e ogni video avrà un punteggio, che è appunto la somma dei singoli voti, e da questo si stila la classifica. Chi ha il punteggio più alto vince e via così. Allora, Alessandra, prima di salutarci, approfitto di averti qua con me per nominare il primo vincitore di questa kermesse preventiva, il video più votato dai nostri ascoltatori, che riceverà un buono IBS di 1000 euro proprio quale riconoscimento ufficiale per questa vittoria. E il video è... Il brano più votato, lezione di prevenzione qui in studio, devo dire emozionatissimo, voi non lo vedete, forse anche brividi da emozione, il dottor Stefano Bruno, che insieme a Mafi, lui è l'autore, Mafi ha cantato il brano. Dottor Bruno! Buongiorno, mamma mia che emozione, veramente una gioia grandissima, inaspettata, non posso che ringraziare tutto il pubblico da casa, soprattutto il pubblico giovanissimo che è stato così attento, così costante nel supportare tutta questa iniziativa e raccogliere con grande emozione e gioia questo bel premio. Emozionato, eh? Molto, molto, sì. Decisamente. Però sì. La voce non trema. Allora, dottor Bruno, complimenti. Grazie. Complimenti anche a Mafi, complimenti a voi che ci avete sostenuto, ma continuate a seguirci perché mercoledì proclameremo il vincitore della giuria critica. Intanto io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do come sempre appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.